Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Eccoci qua, buonasera a tutti, buonasera da Maurizio Calzavara, buonasera da Rock Wave Live. E buonasera anche a Michele Tosone, un grande ritorno. Buonasera Michele, e un grande ritorno anche di Paolo Cecchin. Buonasera Paolo. Buonasera. Dopo il disco precedente sei ritornato e ci fa molto piacere per presentare il disco nuovo, che è proprio uscito da pochissimo. È uscito il 29 settembre. Beh, 29 settembre, mi ricorda qualcosa? Ricorda qualcosa. Ricorda no, ancora. Data... Sei un battistiano te? Abbastanza. Sì. Perché 29? Perché è stata una casualità oppure così? No, è stata una casualità in realtà. Però... però è una curiosità voluta forse. Sì, sì, ecco. Voluta da qualcun altro. Voluta da qualcun altro che non lo so. Bene, okay. Secondo disco, cioè disco, non lo secondo disco, nuovo disco. Quanto valgo? Un appunto di domanda. Secondo me vali molto. Però al di là di una domanda quasi provocatoria, quanto valgo? Sì, essenzialmente è nata come domanda provocatoria. L'idea del disco e anche di nuovo, questo nuovo progetto. Di questo nuovo progetto. Che era anche... Ricordiamo il progetto precedente che ha avuto un buon successo, ha smosso notevolmente. Sì, il primo disco è stato del 2010 Nel mio mondo. Smosso notevolmente, sei stato al MEI. Sei stato favorevolmente al MEI, cioè ti hanno amato immediatamente musicalmente. Quindi è una cosa molto positiva. Quindi hai fatto una buona breccia e poi sei arrivato giustamente dopo un po' di tempo al nuovo disco. È importante arrivare a un nuovo disco, vuol dire che c'è qualcosa di positivo nel percorso. Sì, sicuramente si aumenta la consapevolezza di sé. Il primo disco è stata quasi una scommessa voluta. Però era quasi un salto nel vuoto e quindi non si sapeva benissimo come poteva essere preso e dove si sarebbe potuti arrivare, dove sarei potuto arrivare. Ma sei potuto andare bene, secondo me. È stato accolto bene e mi ha dato ancora più convinzione di continuare questo progetto. Poi in realtà il secondo disco è nato in maniera naturale, cioè non è stata una forzatura come qualcuno può pensare. Finito il primo disco, devo scriverne un altro. No, in realtà ho cominciato già a scrivere canzoni già durante la promozione del primo. Ed è stata una cosa naturale. Dobbiamo ricordare una cosa. Il primo disco ha avuto questo movimento grazie anche a una produzione mirata di due personaggi. Sì, Stefano Florio, che è il produttore artistico di questo secondo disco. Esattamente. E Matteo Franzani. Ecco, sono i tuoi angeli custodi, possiamo dire questo. Sì, una specie. Una specie. Mi proteggono dalle forze del male. Dalle fonte del business totale. Stiamo scherzando. Ti hanno dato una mano per praticamente farti aprire la strada. Una strada dove tu volevi proseguire, dove tu volevi esaminare, trovare, scovare i tuoi indirizzi musicali. Sì, mi hanno dato una mano, mi hanno indirizzato nella retta via, si può dire. Ecco, possiamo dire così. Un po' la tipo biblico nella retta via, musicalmente. Sì. Io sono un artista ancora acerbo, forse incompleto sicuramente, lo sono ancora perché sono sempre in viaggio. L'artista deve essere venire, continuare a provare, a sperimentare, secondo me. Loro mi hanno indirizzato... un po' come le rotelline della bici, no? Sono stati una rotellina da Florio, l'altra da Franzani. Lentamente. Poi alla volta adesso sto cercando di imparare. Che differenza c'è secondo te, anche dal punto di vista dell'incontro sonoro rispetto al disco precedente? Questo è più rockettaro secondo me, leggermente più rockettaro. Sì. È più consapevole, sei più consapevole. Più consapevole, più diretto. Più diretto, esattamente. Meno timoroso sia per quanto riguarda i testi che anche per quanto riguarda gli arrangiamenti. Che ho scritto insieme a Stefano Florio e siamo stati anche più arditi anche perché un sax ha un certo senso, un certo usare il sax nel pezzo, per esempio nel pezzo numero 5 ha un certo valore che allontana determinate tematiche anche musicali che tu avevi percorso, ma devi percorrere altre nuove per sviluppare altre idee. Sì, sì, è stata una sperimentazione che è stata naturale anche questa, perché sinceramente ho lasciato che le idee che mi venissero e non ho posto freni, per cui se pensavo si potesse star bene il sax, ho detto proviamoci, stava non bene. Stretto nei cliché del rock, chitarra, basso, batteria e basta, ho cercato di trovare... Dobbiamo sottolineare, cari ascoltatori, che Paolo è un pluristrumentista, cioè non solo suona la chitarra, suona il basso, suona anche la batteria, lui ha incominciato a suonare le cose, cioè a suonare, faceva parte di una cover band, tutti fanno parte di una cover band, tra Neil Young suona, il suono di Neil Young è corposo, caro Paolo. Beh, mi piace. Ti sacco. Piace molto? Mi piace un sacco perché è molto vero, molto, è molto vero. È molto ruvido anche in certi assoli di chitarra, il suono che... anche se non è forse la perfezione dal punto di vista sonoro, perché dici è un po' sporco, ma è sporco però quello sporco voluto è anche sporco voluto che serve, che graffia, a smuovere, che graffia. Sì. Poi si è passato anche ai Pink Floyd, ma sì, sono stati episodi per la tua carriera e la tua carriera da solista. Siamo arrivati al secondo disco, adesso come sempre apriamo la finestra, abbiamo scelto il primo pezzo per lanciare, per far sentire ai nostri ascoltatori il disco nuovo. Stavolta lo sentiamo un pezzo da disco e poi chiaramente procederemo anche con il live. Abbiamo scelto che cosa, Paolo? Abbiamo scelto Alternativa. L'Alternativa che è un pezzo che ha smosso parecchie cose in senso positivo. Adesso lo sentiamo e poi ne parliamo. Vabbè. Ok? Rock Wave. Rock Wave Live. Il trasgressivo, odi la moda e le sue regole. Sei anarchico ed ossessivo, nel tuo mondo così fragile. Nascondi il volto dietro occhiali scuri, non vuoi essere mio simile. La gente parla e tu non te ne curi, per te ignorare è troppo facile. Alternativo, sì, ma alternativo a chi? Alternativo, sì, ma alternativo a chi? Alternativo, sì, ma alternativo perché? Alternativo, alternativo. Ascolti musica che non ti piace, solo per essere speciale. Pensi di essere un grande attore, ma il tuo ruolo è marginale. Sei un po' strano, forse stravagante, senza una causa ed una verità. Lo sai, sei un uomo come tutti gli altri, perché ti vuoi distinguere. Alternativo, sì, ma alternativo a chi? Alternativo, sì, ma alternativo a chi? Alternativo, sì, ma alternativo perché? Alternativo, alternativo. Alternativo, sì, quando ti mostri così, quando sfidi la sorte per poi perdere ancora. Quando essere differente è uno stile di vita, quando cresci puoi avvertirmi oppure farla finita. Quando pensi che il tuo mondo sia migliore del mio, quando ami essere strano ciò che non sono io, quando essere provocante è uno stile di vita, quando cresci puoi avvertirmi oppure farla finita. Quando l'uomo qualunque è il tuo nemico, quando non dai nessun ascolto a quello che dico, quando essere ignoranti è uno stile di vita, quando cresci puoi avvertirmi oppure farla finita. Alternativo, sì, ma alternativo a chi? Alternativo, sì, ma alternativo perché? Alternativo, alternativo. Alternativo, sì, quando ti mostri così, quando sfidi la sorte per poi perdere ancora. Quando essere differente è uno stile di vita, quando cresci puoi avvertirmi oppure farla finita. Quando pensi che il tuo mondo sia migliore del mio, quando ami essere strano ciò che non sono io, quando essere provocante è uno stile di vita, quando cresci puoi avvertirmi. partito. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Un bel pugno sullo stomaco, Paolo. Sì, fa sì. Cioè, i pugni sullo stomaco non fanno bene, però in questo caso musicalmente fanno molto bene. E qui qua vali molto, perché è un pezzo trascinante al 100%. È un testo che proprio delle staffilate, non mica mandi a dire assolutamente, le dici a pienamente le cose. No, non ho, in questo pezzo non ho avuto peli sulla lingua. Assolutamente. Diciamo che il significato è meno superficiale di qualcosa. Di come qualcuno può pensarlo, perché ho usato l'esempio di una persona alternativa in senso superficiale per descrivere un qualcosa di più profondo, perché nel testo si parla di ascolti musica che non ti piace, sì, oppure ti divesti in modo stravagante, eccetera, però quello che ci tenevo a sottolineare è un aspetto più profondo. Non voglio condannare le persone che cercano se stesse, che vogliono esprimersi e che quindi si vestono in maniera particolare. Io vado contro quell'atteggiamento delle persone che si staccano dagli altri, che vogliono essere diverse, ma nella diversità ne fanno una forma di presunzione, sì, come dire: io non sono come te, però lo dicono con quella puzza sotto il naso, aria, lo snobismo, come dire: guarda, ma io non sono come te. Io... è questo, tanto per essere chiari, che dopo magari gli alternativi, quelli canonici, quelli che si vestono strani, che poi, non vorrei che siamo molto qualche, d'accordo, qualche equivoco, sì, non ho nulla contro... tu hai spiegato chiaramente cosa intende, sì, alternativa, okay, e che musicalmente è un pezzo decisamente molto valido. A me mi ricordi, cioè, sentito un pezzo simile, una band scatenata non poteva essere altrimenti, tutto a tutto vapore, nel senso proprio a forza, proprio propulsiva, sì, chitarre distorte, voce potente, è una voce che non finisce mai, cioè non prendi fiato praticamente. Sì, è stata dura cantare il ritornello in studio. Esattamente, il ritornello non prendi proprio fiato. Sono tutte frasi proprio legatissime, però con un po' di allenamento, un po' di tapirulano magari, qualche si può fare, ci vuole anche tapirulano, quindi allenamento per andare ci vuole preparazione fisica, uno non pensa, ma no, ci vuole per fare un disco ci vuole preparazione fisica, ci vuole, c'è poco da fare, tutti, non è facile, sì, siamo d'accordo che è facile fare un disco tecnicamente, secondo il computer si può fare tutto, però preparare un disco non è facile, cantare un pezzo non è facile, qui è un canto dal vivo, non ci sono gli artefatti, non c'è qualche giro di manovella, chiaramente, sì, la cantavi proprio come la canti, insomma. Sì, sì, ci vuole preparazione, bisogna capire bene, studiare bene la dinamica del pezzo e poi ovviamente la respirazione, perché è importantissima, soprattutto in frasi tirate così, bisogna prendere fiato prima. E calibrarla non è mica semplice. È bello che il pezzo, quando uno scrive un pezzo e lo canta con una certa considerazione, con un certo trasporto, c'è poco da fare. Sì, sì, sì, sì. Quando uno si scrive i pezzi penso sia... gioco forza coinvolto in quello che canta poi, quando lo canterà, quindi è per questo che forse gli autori hanno, delle proprie canzoni hanno una marcia forse in più rispetto a altri, hanno canzoni dei pezzi. Uno può anche farla propria, magari anche farla anche arrivare in maniera migliore rispetto magari all'originale, però... c'era uno solo l'ha fatto, si chiama Johnny Cash con One Day degli Udu, lo stesso Bono l'ha fermato, la canta meglio di me, la dà in pasto al pubblico meglio di me, ma questo è un caso isolatissimo, sì, bisogna essere proprio uno come Johnny Cash, avere un'anima, è un'anima come Johnny Cash, esattamente. Ok, 22:17, abbiamo sciolto tutto nel senso positivo del termine, adesso sciogliamo anche musicalmente il discorso e cominciamo a suonare. Che cosa, Paolo? Pensavo di suonare una canzone d'amore, che è la decima del disco, si intitola Fuoco. Benissimo. Giorni e giorni ho aspettato il meglio e ora son qui che osservo il tuo risveglio, rugiada fresca sulla mia pelle, caldo bagliore di remote stelle, ti ho conosciuta eri una bambina di illusione ed utopia, regina, e ora son qui appoggiato al tuo petto, schiavo ma libero al tuo cospetto. Sei riuscita a riaccendere un fuoco ormai spento, ammettere che sei speciale, sai, non è affatto semplice. Sei così eterea, sembri quasi un sogno, causa e soluzione, mio bisogno. E ora son qui che cerco le parole, una poesia, una rima, una canzone. Ti ho conosciuta, eri una bambina di illusione ed utopia, regina, e ora son qui appoggiato al tuo petto, schiavo ma libero al tuo cospetto. Sei riuscita a riaccendere un fuoco ormai spento, ammettere che sei speciale, sai, non è affatto semplice. Sei riuscita a riaccendere un fuoco ormai spento, ammettere che sei speciale, sai, non è affatto semplice. Sei così eterea, sembri quasi un sogno, causa e soluzione, mio bisogno. E ora son qui che cerco le parole, una poesia, una rima, una canzone. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Ok, ci siamo Paolo. Abbiamo sentito, abbiamo ascoltato una ballad, perché nel tuo disco, oltre i pezzi potenti come abbiamo sentito all'inizio, che abbiamo ascoltato da disco, ci sono anche le ballad. Perché il cantautore è anche questo, Paolo. Sì, riesco a conciliare bene queste due anime. Distinte. Quella morbida, velutata, quella morbida, malinconica, sì. E quella rockettara al 100%, sì. Perché tu sei un rockettaro, c'è poco da fare. Io sono nato rockettaro. Sei nato, sì, rockettaro e rimarrai assolutamente rockettaro. Rockettaro, però penso di avere queste due anime, come ce le hanno un po' tutte. Sì, questa, certo. Queste anime differenti e contrastanti che compongono, penso, ogni persona. E poi oltretutto penso che sia questione anche di momenti, perché ci sono dei momenti in cui sei più arrabbiato e percepisci magari solo il negativo del mondo o qualcosa che non ti va, e quindi metti nelle tue canzoni solo la rabbia o cerchi di esprimere questa tua frustrazione o questo tuo malcontento. Altre volte invece il mondo sembra migliore o hai qualche ragione per essere felice, quindi magari le ballad. Le ballad, come è nata questa ballad? Cioè, il pezzo precedente l'abbiamo capito, ce l'hai spiegato come si è sviluppato. E questa come è nata, come si è sviluppata, come hai trovato l'input per fare questa ballad? Qui chiaramente, cari ascoltatori, abbiamo sentito per chitarra e voce proprio striminzita come originalmente era. Sì, in realtà è nata così, anche nei provini che avevo fatto chitarra e voce. È una canzone di amore che in quel periodo, che ho scritto in un periodo in cui avevo avevi questo questa predisposizione, tipo di sentimento, sì. Questo tipo di voglia. Di voglia, sì, una passione interiore, che è proprio il titolo, poi fuoco, certo. È proprio esemplificativo. Questo fuoco, questo fire, sì, molti, sì, anni fa tu eri, forse non eri neanche nato, sicuramente non eri nato, un certo personaggio si chiama Arthur Brown, Fire, cantava Fire, ma era un'altra cosa, il Fire, lui era un personaggio inglese che si trasvestiva, si truccava e dava questo pezzo tostissimo, duro, ma nello stesso tempo è delicato, pieno di energia. Fai anche questo fuoco, beh, è un fuoco romantico il tuo, non sì, è un sì, fuoco sì, che brucia, ma può anche bruciare romanticamente parlando. Sì, sì, il fuoco penso che sia uno degli esempi forse più calzanti per descrivere quella che è l'anima. Cioè, è la passione. La passione. La passione. Anche per quando uno tende a descrivere magari la chitarra di Hendrix, il fuoco, sembra il fuoco, l'esempio più, e poi anche quando ha bruciato la chitarra, cioè, bella bruciata veramente, quella è la passione che può essere, che può manifestarsi in maniera romantica, in maniera addirittura aggressiva, certo, istintuale. Certo, quasi deleteria per gli altri, sì, la passione, sì, sì, la perché bisogna avere passione per fare il cantautore, sì. Ci vuole tanta passione. Ci vuole passione. Bisogna superare tanti ostacoli, bisogna andare avanti sempre. Bisogna avere essenzialmente grande tenacia e poi una cosa che secondo me è fondamentale per uno che vuole scrivere canzoni è avere sempre le orecchie aperte, gli occhi aperti sul mondo. Sul mondo, vero. Perché io vedo che l'ispirazione arriva da po' da tutto, arriva ovunque, ovunque, e in realtà non bisogna anche essere così... fare anche gli snob anche come autori, perché alle cioè volte, cosa vuol dire Paolo in questo caso? Nel senso che alle volte uno cerca il libro dell'autore complesso, la filosofia. Tu hai citato Nietzsche un po' di tempo fa, sì sì sì, ma quello lì è perché ho fatto il liceo, quindi studi filosofici li ho fatti, poi una materia che mi piace, ti piaceva e ti piace, mi piace ancora tuttora. Sì, però voglio dire che non bisogna essere troppo snob, non bisogna proprio cercare di essere alternativi, tra virgolette, anche in questo, cercare i testi troppo, quindi, complicati. Quindi alternativi, troppo snob, diventi elitario. Sì, diventi l'elite elitario. Non so quanto valga, appunto, sì, quanto valgo. L'elite vale poco, nel senso, si racchiude il mondo, invece il mondo deve essere un po' più ampio. Sì, sì, è quello il punto. Non bisogna andarsi a chiudere e dire faccio il testo difficile così sembro più oppure. Esattamente. In realtà l'ispirazione può arrivare da uno spot in TV, può arrivare da una passeggiata, cioè non deve arrivare dal libro del filosofo del 300, certo, dell'India, che è sconosciuto. Una volta c'era quell'usanza. Fa figo dirlo, ho scritto il pezzo perché... Una volta c'era l'India, da George Harrison in su, tutti quanti sono andati tutti in India. In India anche dal punto di vista così di idee, citiamo Claudio Rocchi, che io amo particolarmente, era un italiano che è andato in India, un cantautore italiano famoso. George Harrison è stato, i Beatles hanno portato anche quello, hanno portato l'aria dell'India, il voglia di sperimentare, di conoscere l'India. Però è una moda che poi è stata tale. Sì, è stata tale anche Lennon, difatti, nella canzone Se sei sedi, proprio prendeva un po' bonariamente in giro il guru di il guru, esatto, non mi ricordo adesso il nome, che poi c'è stato, il guru si è un po' arrabbiato su questo, sì, su questo, dopo chiaramente si sono messi un po' di tempo, si sono ritrovati, però c'era questa pillola un po' ironica di John Lennon, sì, a proposito del viaggio in India. Era un maestro di questo sarcasmo, di questa ironia pungente, sapeva essere veramente incredibile. E quindi guardarsi un po' intorno e guardarsi un po' intorno e scrivere canzoni anche su giornata di pioggia, vedi la pioggia e scrivi la canzone, cioè non è detto che devi andare a cercare per forza nel libro tal di tali. E noi ci guardiamo spesso intorno e cerchiamo di scegliere gli artisti, grazie ad Alberto Pisco che ti ha convocato stasera, e lo salutiamo, il nostro direttore artistico. Abbiamo detto, no, Paolo è bravo, dobbiamo convocarlo, mi pare giusto, quindi sei venuto a proporre il nuovo disco, chiaramente. Sentiamo un altro pezzo, sì, un altro pezzo da disco. Ti ricordi la traccia che abbiamo scelto, Paolo? Dovrebbe essere Non avere paura. Non avere paura. La numero 4, vero Michele? La numero 4, la sentiamo, ok? senti paralizzata dalla tua libertà, dalla schiera infinita di possibilità. Ma non avere paura, sono lì accanto a te, nell'amore l'errore no, non c'è. Ti senti abbandonata nell'oscurità, cerchi una ragione e una verità. Ma non avere paura quando sei accanto a me, nell'amore ragione sempre c'è. Ora guarda le stelle coi tuoi occhi da te, SMS 346 23 20 033. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Ok, bello. Due chiavi di lettura per sto pezzo, Paolo. Adesso ne parliamo, sì, perché a me è piaciuto particolarmente. Ero incerto se mettere, se lanciare questo o poi il pezzo che abbiamo lanciato noi di Rock Wave praticamente. Sì. Le chiavi di lettura sono queste. Innanzitutto i violini, gli archi. Gli archi danno, a me sono sempre piaciuti perché danno un che di popolare. Questo sembrava anche un pezzo popolare. Poi c'era un incastrato dentro, un assolo bello, nitido, pulito. Chi sì, lo suona? Stefano Florio. Che bello, è proprio perfetto, che è il produttore anche. Un sì, assolo bello, pulito, sta proprio incastrato perfettamente all'idea dell'arco, del musica per archi. Sì, è stato un bel miscuglio. È un bel miscuglio, canzone, ma un miscuglio positivo. Positivo, sì, sì, è riuscito molto bene. Già quando è nata la canzone, che avevo fatto il provino, era in realtà il provino era chitarra, basso, batteria. Però avevo già in mente, qua ci stanno gli archi, qua ci stanno gli archi. Bello, bello, vedi in mente. L'avevo già in mente, poi parlandone con Stefano, Matteo, poi abbiamo deciso, decidiamo gli archi, che sono stati fatti da Michele Sguotti, il violinista, che è stato molto bravo, li ha fatti in maniera impeccabile. Sì, Dentro a Terra è il pezzo che abbiamo scelto noi per lanciare il disco, però anche questo ero incerto, noi della redazione, io ed Alberto, ero incerto, perché questo era un pezzo molto significativo. A me piace la musica popolare, il folk, era targato leggermente di folk, perché questa cadenza, questa specie di danza, poi interrotta da questo bel assolo di chitarra vera, elettrica, potente, e poi ritorna alla danza. Sì, sì, sì. E poi c'è la tua voce, importante, la tua voce da, suggella tutti gli elementi. Sì, unisce un po' il tutto. Sì, è un po' folk, sì, perché è stato ispirato anche da, devo dire, da alcuni cantautori rock, cantautori americani, folk. Nuovi tradizionalisti, sì, leggermente, sì, potremmo. Sì, che ascoltavo in quel periodo. E quindi quell'arpeggio iniziale ti è venuto in mente. Nato un po' il giro iniziale, che è il giro principale della canzone, è nato in quel modo lì. Poi si è sviluppata. Ho voluto metterci un po' di chitarra elettrica perché volevo renderla un po' più rock. Poi rockettara. Ma il rock... Però i violini ci stavano. Sì, e allora mettiamo che i violini. Perché... Il flauto iniziale era una bella trovata. Un bel escamotage. Anni 70. Quindi è venuto fuori benissimo. Cioè, secondo me è stata. Un'intuizione ottima. C'è stata difficoltà a gestire tutti gli elementi o il produttore Stefano ha detto no, facciamo proprio così, no, subito? Ha le idee chiare. Alle idee chiare. Una volta che abbiamo deciso i vari elementi, poi lui sapeva già che come sistemarli e come farli suonare nel migliore dei modi, per cui... E io mi sono trovato d'accordo. Ah, anche noi. Stiamo discutendo piacevolmente con Paolo Cecchini e presentando Quanto Valgo, il suo nuovo album, che adesso, un altro pezzo live, fa parte dell'ispirazione, proprio della costruzione del programma, il live. Cosa ci fai sentire, Paolo, adesso? Io direi di fare Quanto Valgo, proprio La title track, si chiama la così. Title track, come una volta si chiama lo stesso title track, ancora adesso. Non so se dice traccia titolo. Title track, facciamo all'inglese, title track. Per la libertà, ma la prigione è gratuita. Se esiste un prezzo, non lo voglio pagare. Se esiste un prezzo per rinascere, avere tutto ma cambiare. Se esiste un prezzo, non lo voglio pagare. Partecipiamo tutti a questa grande svendita, dove il superfluo diventa necessità. Ho messo all'asta perfino la mia follia, forse a qualcuno magari servirà. Forse non tutto si può comprare, ma solo che ha un costo ha una dignità. Hai messo un prezzo a tutto ciò che è mio, dimmi allora quanto valgo io. Se esiste un prezzo per averti qui, restare insieme ed amarti. Se esiste un prezzo, non lo voglio pagare. Se esiste un prezzo per la vita mia, ma la mia morte è gratuita. Se esiste un prezzo, non lo voglio pagare. Partecipiamo tutti a questa grande svendita, dove il superfluo diventa necessità. Ho messo all'asta perfino la mia follia, forse a qualcuno magari servirà. Forse non tutto si può comprare, ma solo che ha un costo ha una dignità. Hai messo un prezzo a tutto ciò che è mio, dimmi allora quanto pago io. Rockwave. Rockwave, l'onda del rock. Rockwave Live. Benissimo, quanto valgo la title track? Sì. Dal punto di vista musicale dobbiamo dire una cosa, che qui l'hai sentata, eseguita in forma prettamente acustica. Mentre, cari ascoltatori, nel pezzo originale non è proprio acustico. Non è. Assolutamente, no. Si vedeva con la grinta che mettevi nel rincorrere le note della chitarra acustica, decisamente. Sì, uno, un pezzo rock anche questo. È un rock, assolutamente rock. E poi il bello di questo, dell'esecuzione di Paolo stasera, in questo momento, le due voci che si rincorrevano, le domande e le risposte. Sì, è stata in realtà una cosa un po' casuale, cioè è nata come così. Provino, perché... è nata, cioè un po' ce l'avevo in mente, però è nata più che altro da questo dualismo. È stato un errore in realtà mio, guardando, come mai? Nata, perché avevo scelto un po' una tonalità forse un po' troppo alta, no? Quasi in falsetto, e quindi quando l'ho registrata nel provino dovevo gioco forza farlo in falsetto, esatto. Quella parte lì, poi riascoltandola ho detto ma ci sta bene però il falsetto, vedi. E quindi poi è rimasto, perché in realtà il testo è una specie di rimbalzo, di dialogo, partecipiamo, esattamente, un rimbalzo fra due persone, quasi un annuncio, esattamente, anche una voce femminile che annuncia partecipiamo, così. E quindi ci stava bene il falsetto, facevo questa bella distinzione tra il falsetto e la voce normale, e cioè come se qualcuno parlasse a me e io rispondo, certo, è proprio così, rispondessi. E quindi abbiamo tenuto, ho detto bene. Piace, no, hai fatto bene, è un'idea, non da poco. Possiamo fare partecipare dopo, più tardi lo facciamo partecipare al nostro, c'è un collega di Radio Padova qui, amico del nostro regista, poi parteciperà sicuramente anche lui alla conversazione, piacevole conversazione con Paolo. Volevo sempre estrapolare l'idea del pezzo. Tu hai detto questo gioco del falsetto, ma musicalmente, come un pezzo rock, assolutamente rock, questo l'avevi fatto in versione acustica, striminzito, ma mica tanto striminzito, anche qua non avevi la chitarra elettrica, ma gli hai dato molto peso, molto impulso stasera, in questo momento, al pezzo. Sì, il pezzo, ho cercato di rendere un po' l'energia che ci può essere anche nel disco, che cerco di dare anche dal vivo. E in realtà questo pezzo, un'altra cosa strana di questo pezzo, e un'altra cosa che ti fa capire che io non chiudo le porte all'ispirazione, certo, in qualsiasi modo possa venire. Dove è partita? È partita da una batteria, in realtà campionata in una tastiera, l'ho fatta partire da una batteria dance, quindi in levare, tunz, tunz. Non era proprio così. E quindi a proposito di dance. Sì, e poi sono partito a fare questo giro che era una specie di tromba synth fatta con la tastiera, che mi ha preso subito, e da lì è nata la melodia della canzone. Dobbiamo ribadire che Paolo suona anche la batteria, assolutamente. Sì, la batteria, non la batteria, cioè, da suona, insomma, da, suona, sì, da fare, ecco. Ci provo. Ci provi. Ho suonato anche nel disco, per cui qualcosa non riesco a fare. Qualcosa hai fatto, però c'è un batterista però nel disco. Sì, c'è Giulio Faedo, un bravissimo batterista. Uno che pesta, quando vuole quello, pesta. Lui è un batterista, bravo. Come si dice, un batterista con tutti i crismi del batterista. Sì, tu sì, però... ti dai da fare, dai, perché questa voglia di sperimentare tanti strumenti, come è nata, come è sviluppata all'epoca delle cover di Neil Young e dei Pink Floyd, o più avanti? No, è nata anche prima, forse. C'è l'esigenza mia di scrivere canzoni per me, e poi in realtà, avendo solitamente ben chiaro ogni volta che comincio una canzone la strada da percorrere, quindi penso già il basso dovrebbe far così, la batteria così, e quindi un po' alla volta ho detto perché non comincio a suonare io, già che so più o meno come vorrei come che facessero, poi esatto, non riesco a farli ovviamente benissimo, però ho imparato un po' alla volta, così imparo autonomamente a registrarmi i provini a casa e con il computer, e quindi non... Ecco, quindi cominciamo, ritorniamo al discorso precedente, bisogna sempre sperimentare continuamente. Sempre, sì, abbiamo citato i Beatles prima, John Lennon. I Beatles sperimentavano sempre, continuamente, ogni giorno, anche fino alla fine di carriera. Sì, e c'è poco da fare, è proprio così. Non è una cosa che... non è una leggenda metropolitana, è la verità sacrosanta. Sperimentavano, bisogna sperimentare, bisogna provare, e bisogna suonare, soprattutto dal vivo, vero Paolo? Sì, questa è la cosa importante, la cosa anche forse più difficile nel momento, momento attuale, viviamo, sì. È molto difficile perché intanto è difficile dal punto di vista economico, perché la crisi si è fatta sentire anche dal punto di vista del mercato discografico, che si vende veramente poco, e poi dal vivo le possibilità non sono poi tantissime, alcune porte si aprono per alcuni e vengono chiuse per altri inevitabilmente, certo. Quindi ci sono degli autori, diciamo, ci sono dei cantanti che a cui le case discografiche si affidano perché sanno che hanno un ritorno, e quindi non c'è ricerca delle nuove voci. È difficile che rischino, adesso ancora di più, cioè già una volta era difficile, però adesso qualche spiraglio c'era, adesso non c'è più neanche la possibilità economica di rischiare. Ma non c'è più i nani ricordi di una volta, però, cioè quei discografici che avevano una certa idea dell'emergente, della persona che voleva intraprendere una carriera, non esiste più. Sì, no, purtroppo no, ed è un peccato. È un peccato, sì. Speriamo che possa ritornare. Cioè, ci sono cicli, speriamo che il ciclo finisca quello negativo e cominci quello positivo. Sì, sì, sì, me lo auguro anche per me. Anche a noi. Cioè, noi ce lo auguriamo sempre, aspettando gli artisti emergenti, e questo è anche il compito di Rockaway Live, di ospitare gli artisti emergenti, di ospitare le voci emergenti. Che tutti conosciamo tot, ma bisogna conoscere anche oltre il tot. Sì, dopo anche il bello di questa trasmissione, a parte il fatto che siete dei volontari che vi date alla musica, quindi con grande passione, questa da apprezzare. Ma quindi poi, passione per passione, tu hai la passione del suonare, di interpretare, sì. Noi abbiamo la passione di irradiare il messaggio. Ci vogliono entrambi per riuscire a smuovere qualcosa, per cui a voi va il mio ringraziamento. Poi e quindi è importante questo, c'è importante passione, però ci vogliono più persone possibili, bisogna coinvolgere più gente, certo, possibile, certo, non è uno da solo non può pensare di cambiare il mondo, ci vuole una presa di coscienza collettiva per riuscire un po' a cambiare le cose, ma come in tutte le grandi rivoluzioni storiche oppure economiche, cioè è un movimento interiore che comprende tantissime persone e che accomuna un obiettivo simile che molte persone si prendono l'impegno di raggiungere. Certo. Sentiamo un altro pezzo da disco, che traccia abbiamo scelto adesso, Paolo, ti ricordi? Dovrebbe essere la 7, Pigro. Ah, Pigro, ecco, adesso lo sentiamo e dopo ne parliamo diffusamente, perché Ivan Graziani è giusto parlarne, assolutamente, ok? Rock Wave. Rock Wave Live. Memoria, ma non distingui il ramo da una foglia, il ramo da una foglia, pigro. Una mente fertile, dici è alla base, ma la tua scienza ha creato l'ignoranza, ha creato l'ignoranza, pigro. Lasci scappare che servono a condire il tuo discorso d'autore. Come bava di lumaca stanno lì a dimostrare che è vero, non si può migliorare. Col tuo schifo di educazione, col tuo schifo d'educazione, pigro. La capra per il latte, la vanna per le voglie, ma non ti accorgi della noia che ha tua moglie, della noia che ha tua moglie, pigro. Tu castighi i figli in maniera esemplare, poi dici siamo liberi, nessuno deve giudicare, nessuno deve giudicare, pigro. E poi le parolacce che ti servono a condire il tuo discorso d'autore. Come balla di Luma che stanno lì a dimostrare che è vero, non si può migliorare. Col tuo schifo di educazione, col tuo schifo di educazione, pigro. Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Quando si parla di Vagraziani si parla di pigro. Un pezzo molto molto bello, un pezzo di cui come mai ti sei innamorato di pigro, Paolo? È stata Paolo, pezzo molto interessante di Vai, con testo decisamente tosto. Testo tostissimo. È stata una proposta che mi ha fatto Stefano Florio, il produttore. Mi ha detto: prova a ascoltare qualcosa di Ivan Graziani. Conoscevi qualcosa? Sì, sicuramente qualcosa. Qualcosina, non molto. Perché probabilmente forse sono troppo giovane, la mia generazione forse non lo conosce poi così tanto, non lo conosceva così tanto. E, però un po' alla volta ho cominciato ad ascoltarlo e questa canzone mi ha colpito essenzialmente per il testo, che in cui mi ritrovavo veramente in maniera incredibile, perché direi che è molto, in certi aspetti è simile alla mia alternativa per, sì, per la veemenza e per il sarcasmo che Graziani usa e anche per proprio il testo graffiante che arriva in maniera immediata. Sì, un bel pugno, cosiddetto pugno dello stomaco, pugno dello stomaco prima. Che mi piace un sacco, veramente non, anche lui senza peli sulla lingua, lui era un artista a tutto tondo, completo, stravagante nel suo modo di essere, ma arrivava in maniera incredibile e non è sceso a compromessi, un artista sicuramente da apprezzare che purtroppo nelle nuove generazioni non lo conosco, cioè, già la mia degli anni 80 un po' difficile, ho fatto fatica, c'è voluto il mio produttore, ho voluto un po' di per riuscire ascolti. Per riuscire ad apprezzarlo ho avuto la fortuna di riuscire a conoscerlo, però le generazioni successive dubito che lo conoscano più di tanto. È un personaggio che ha fatto scuola per tanti chitarristi in Italia. Lui era un grandissimo chitarrista, un grandissimo suonava la chitarra in una certa maniera e veramente la suonava benissimo, era straordinario come chitarrista. E un'altra cosa che dobbiamo sottolineare, il pezzo, la difficoltà anche di respirazione, anche questo è un pezzo difficile da cantare, Paolo. Anche questo, mi sono scelto proprio pezzi molto difficile, perché non respiravi proprio in quel momento in cui tutto d'un fiato il ritornello lo dici. Ho deciso proprio di farmi del male facendo questi pezzi. E sì, la parte centrale, chiamiamolo ritornello, non è il ritornello, no, la parte centrale. È la parte centrale, è una tirata straordinaria. Bisogna essere anche molto sciolti di mandibola, perché poi cantarla rischi di mangiarti le parole, bisogna cercare di aprire più possibile. Sì, esattamente, molto sciolti di mandibola, come tu giustamente hai detto. Quindi, è stata dura anche quella, forse ancora più dura rispetto all'alternativo, perché questo qui è più difficile scandire bene le parole. Farsi capire. Ed è giusto che vengano capite, perché bisogna avere rispetto, perché è una cover oltretutto, perché se è una mia canzone ma mangi una parola ok, ma qui anche il testo ha la sua grandissima importanza, è giusto che venga cantato in maniera chiara e comprensibile. Ma la cover sì, però riveduta e corretta da te, questo è positivo, non è una cover fotocopia, è una cover ripresa da te, sulle tue corde, questo è importante. E quando si fa una cover, di solito, negli anni 60 si prendeva e si cambiava ben poco, solo il testo in italiano di Mogol, perché Mogol traduceva tutto a suo modo. A sua maniera, però si cambiava poco. Invece tu l'hai cambiata, perché è giusto che sia così, secondo me. È giusto che sia così, è giusto avere il rispetto. Avere rispetto, ma non la copiatura, il rispetto. No, rispetto e quindi, però riuscire ad esprimerla a proprio modo, quindi non... Io penso di aver fatto questo, insomma, cercato di trasporla a quello che era il mio sentire è quello che provo musicalmente, cioè, e poi ci sta bene anche, ho visto che era giusta per l'album, cioè per il mood dell'album, per le sonorità che stavano nascendo pian piano nell'album, ed è venuta naturalmente. Non penso di aver fatto stravolgimenti incredibili alla canzone. No, ma l'hai fatta tua, questo l'ho fatta mia, e spero possa essere apprezzata. Che certo, non sia, sicuramente. Sono le 22:54, adesso facciamo un altro pezzo live e poi facciamo il solito giochetto sull'isola deserta. Adesso facciamo un altro live. Che cosa fai, Paolo? Io pensavo di fare Da te ritornerò. Perfetto. Cercando di cambiare il mondo, dove cercare, sto cercando un senso vero e profondo, dove cercare, ti ho detto caro, sei un illuso. Che devo fare? Mi hai detto lascia stare, non perdere il tuo tempo. Ma cosa fare? Continuo a vagare, ma da te lo sai, ritornerò. Io da te lo sai, ritornerò. E domani forse non pioverà. Cercando un posto per restare con me stesso, dove cercare, sto cercando pace in un mondo come questo, dove cercare, ti ho detto devo andare, costruire la mia storia. Perché restare e non fuggire? Ti ho detto non temere, troverò la mia strada. Dove cercare? Ma continuo a vagare. Ma da te lo sai, ritornerò. Non pioverà. Non pioverà. Non pioverà. Non pioverà. Ma da te lo sai, ritornerò. Io da te lo sai, ritornerò. E domani forse non pioverà. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Sì, Rockway Live con Michele Tosoni in regia, Paolo Cecchin stasera con il nostro ospite che ci dà, ci ha e ci continua a illustrare questo nuovo album, Quanto Valgo. Bel pezzo anche questo, molto significativo, anche il testo. Quando la pioggia cesserà, quando finisce la pioggia c'è sempre il sereno, c'è questo ritorno, c'è questo riprendere le cose un po' passate, un po' perse. Sì, è un testo di speranza, essenzialmente, di una persona che cerca se stesso, come quale io sono, perché in realtà... Tutti cerchiamo noi stessi. Però in realtà siamo sì sempre alla ricerca. Alla ricerca di noi stessi, siamo tutti. Sì, sì, non ci arriviamo, forse non ci arriviamo mai, forse sì. Bisogna. O ci arriviamo, dipende. Comunque la speranza ci deve sempre essere. Ci deve sempre essere la speranza che domani non piova, che domani sia un giorno migliore, e continuare a cercare, continuare ad incontrare persone, a vivere. E questa è una canzone essenzialmente che vuole dire questo, una canzone d'amore, ma d'amore più che altro non per una persona, ma d'amore per, proprio per la vita. Esatto, per la vita. Ma da te ritornerò quasi proprio un'invocazione alla vita, come dire, io adesso sto andando in cerca, sto seguendo altre strade, non vado molto al mondo, non vado molto, però ritornerò a vivere, cioè, so che la vita arriverà e io arriverò alla vita, cioè, è quasi un aspetto religioso, un aspetto profondo di questa canzone, cioè, è ben presente. Certamente, sono le 23.01, come sempre, come da sempre, da molti anni a questa parte. Adesso è il momento dei 5 dischi da portare su un'isola deserta. A tuo piacimento, da dove vuoi partire, da dove vuoi, sono 5. Tu sei solo stasera, quindi non puoi copiare, qualche altro partecipante alla band non può copiare, sei da solo, quindi non ti puoi autocopiare. Ah, va bene, allora direi, sto pensando dei Beatles sicuramente. Abbiamo citato i Beatles prima. Sì. Beatles ci vuole assolutamente. Abbey Road. Allora, anche se la chiusura è quasi la chiusura del. Però è un disco che ascolto sempre in maniera. Il famoso PID. Paul McCartney è morto, is dead oppure no? C'è una polemica che è saltata nuovamente adesso per altri riscontri. Ricordiamo a chi non lo sa, ma chi non lo sa, lo sanno tutti. Sui 4 che percorrono le strisce pedonali, lui è senza scarpe, è vero. A piedi nudi, che cosa vuol dire? Perché è un fantasma, è vivo, non è vivo, al di là di queste cose. Ah, ma certo, sì, dopo facciamo intervenire anche il nostro collega di Radio Padova, adesso poco si siede, parliamo anche lui, 5 dischi su un'isola deserta. Parliamo di Abbey Road, questo disco favoloso. Qualcuno dice il più bello, qualcuno dice l'album bianco, qualcuno dice Sgt. Pepper, mettiti la cuffia. Cosa dici? Perché hai scelto Abbey Road, Paolo? Perché penso sia il disco che è, in realtà è il disco che forse è conosciuto per primo, e quindi è quello che mi ha colpito di più subito, e anche ultimamente le ambientazioni, come si può dire, il sentimento che c'è in quell'album. È il sentimento, certi arrangiamenti geniali, meravigliosi, che facevano i cori, poi era tutto un continuum quell'album lì, lo ascolti tutto d'un fiato senza fermarti, veramente spettacolare, non saprei cosa dire. Tu ami la musica, adesso ti presenti, vieni allora, avanti, ti ci presenti. Ci sono a posto. Ti presenti, buonasera, ti presenti. Grazie dell'ospitalità intanto. Mi sento un po' un pesce fuor d'acqua perché comunque con il rock... Sì, ma io sono un po' più nero. Sì, però, ma i Beatles sono un po' di tutto. I Beatles sono un po' di tutto. Non si può dire di no, esatto. Ma un disco dei Beatles. Bella la storia della copertina di Abbey Road, la segreteria telefonica, la targa, tutte quelle cosette là. Sono libri su libri, è morto, non è morto. Continuano a dire è morto, non è morto. Sì, sono date delle notizie recenti sul discorso di... No, sono rimasto a quelle che avete detto. Insomma, alla fine sono quelle. Lui ha scelto Abbey Road. Tu dei Beatles cosa potresti scegliere? Tanto presentati, ecco, nome e cognome, allora, dai. Sono Alberto Martino, ecco, grazie. Appunto, dai. Io farei una piccola variante. Dimmi. Essendo un po' più nero, sei molto, sì, musicalmente George sei Benson dedicò un disco ovviamente alle canzoni dei Beatles e porterei quello. Ah, con quelle versioni bene, un po' rivisitate. Tuo soul, il tuo rhythm and blues esiste. In chiave viene, jazz, sì. Porterei quello, perché bene, è interessante. Tu porti quello. Ecco, per esempio. Questa è la prima scelta, poi ci sono altre. Okay, sai Paolo, continua, dai. Allora, ho citato anche, abbiamo citato i Pink Floyd e... Cosa porti? Tutto. Ma posso portarmi anche un DVD? Un DVD live at Pompei, per dirti. Ragazzi, live però dovrei portarmi il lettore DVD. Cioè, vabbè, però... Scelto una cosa mitica, quello... è stato ristampato un sacco di volte anche quello, come tutta la discografia. Poi è un po', adesso non mi ricordo... Che ha due album, mi sembra, in realtà. I primi due album con l'immagine di Sid Barrett, nel senso fuori Ossilio e Nice Pair, quei famosi primi dischi psichedelici. Primo in assoluto, poi non c'era già più Sid Barrett, cioè era andato. Sì, infatti. Ma Pink Floyd, perché il momento psichedelico? Tu sei psichedelico formalmente, rockettaro psichedelico, possiamo dirlo, Paolo? Sì, possiamo dirlo. Possiamo dirlo. Progressi, un po' progressi. Un po' progressi. Dai. Più o meno, non tantissimo, però. No, c'è stato, c'è ancora questa mia parte che è un po' psichedelica. Che poi lui è giovane. È molto giovane, sì, rispetto a me e te. Quindi non so la tua età. Cioè, si è fatto una cultura, insomma. Sì, dai. Ma è bello, è bello. E quindi, no, questa parte... che punta molto alle sonorità che cercano di prendere le persone, di catturare le persone, di creare una sorta di altro mondo. No? Questa... Sid Barrett voleva catturare un altro mondo. Era lui che ha fatto i Pink Floyd, ragazzi. Sì, non si dimenticano, è sempre lui. Poi ha avuto dei problemi. Purtroppo è stato. Purtroppo è andato nel. Cioè, è andato in un altro mondo. L'altro mondo è stato talmente forte che l'ha catturato. E... Ma l'ha sostituito Gilmour. Gilmour non è che sia uno non qualunque. Non è mica uno, insomma, qualsiasi. Ha fatto anche lui la sua storia con la chitarra, con i suoi suoni, con canzoni che sono solo incredibili. Però l'immagine di Sid è sempre stata dentro la discografia di Pink, bene o male, c'è sempre stata, girava, veniva in studio, non veniva, non si sapeva, andava, ma c'era sempre lui, c'è poco da fare. C'è questo alone che... Questo alone è continuato fino alla fine della discografia di Pink, ormai chiaramente non incidono più, uno se n'è andato, un altro se n'è andato, Vabbè. Però al di là di questo ha girato sempre. Vorrei che fossi qui, è sintomatico, c'era sempre lui, c'è poco da fare. Sì. In qualsiasi cosa. In qualsiasi cosa. Vai Paolo, dopo il nostro collega di Radio Padova deve scegliere altri quattro dischi e non può copiare. Non può copiare da nessuno, ma non puoi copiare. Allora, un altro, direi il primo amore in realtà musicale che sono stati, che in realtà non è stato il primo. Ora forse ti sorprenderò. Dimmi. Con questo lo porto più che altro perché è stato uno dei dischi che ho ascoltato quando avevo tipo 10-11 anni, che mi è stato passato, che è il primo disco di Ligabue, che penso sia nel 90 Ligabue, che ho dei ricordi quando avevo 10-11 anni probabilmente. Liga, che non ero io che lo ascoltavo, uno dei miei produttori, che adesso è uno dei miei produttori. Che... L'hai ereditato, dai. E mi è rimasto, lo porto perché mi ricorda, non tanto per l'aspetto musicale, ma proprio perché mi ricorda, e penso che sia una cosa che forse nella musica si è persa, è questa forza che ha la musica di rimanere nel tempo, no? E di fermare dei momenti del passato e di farceli ricordare. Quindi me lo porto più che altro per poter ricordare. Cosa ne pensi del Ligabue odierno? Poi facciamo una domanda anche a te. Ma Ligabue penso che... Qualcuno dice è una fotocopia continua. Ma è vero, secondo te, il concerto che ha fatto recentemente non sembrava dal punto di vista proprio no, parlo quello dell'Emilia, assolutamente no. Ma quel concerto che ha fatto lui stesso davanti a una sterminata platea di gente. Ma non credo sia una fotocopia di se stesso. Penso che un autore, quando arriva a un certo livello, e poi può anche continuare a reinventarsi, ma rimarrà sempre lui. Cioè, lui era ha moltissimi album alle spalle. È stato cioè, quattro esaurite all'Arena di Verona con l'orchestra. Cosa dici? Non è mica semplice. I detrattori molto, molto spesso forse lo fanno anche un po' per invidia, un po' perché dicono da troppo tempo e fa troppo. Cioè, è un po' stancato, canta sempre, ha una voce particolare che può stancare. Però penso che non penso si ricicli, poi ovviamente lui è ormai è diventato un'impresa, per cui è diventato un'impresa, cosa ne pensi? Comunque come i grandi rock. È business. È un business. C'è poco da fare, è un business. Solo i Pearl Jam non si riciclano, secondo me. Pearl Jam cambiano sempre disco dopo disco. Io sono perfettamente d'accordo. Penso a questo. E sì. Da te in su hanno sempre cambiato. Ligabue non è Pearl Jam, sì. Però insomma ha fatto la sua carriera, dai. Fai i suoi bei introiti. Una bella macchina da soldi. È stata una bella macchina da soldi. Nonostante i tempi. Sì, continua a vendere bene. Sì. È uno dei pochi. È uno dei pochi. In Italia c'è solo Vasco e Liga fanno gli esauriti. Zucchero forse. Zucchero, non sempre. Vasco sì. Nonostante il comandante, quindi Vasco è il comandante, sì, effettivamente. Tocca a te, Paolo, ancora. Poi è terzo, sì. Poi direi l'unplugged di Nirvana. Ah, mio... devo alzare in piedi adesso. Mi devo alzare. Quello lì è incredibile. Kurt Cobain nell'essere suo, anche se era unplugged, non sembrava unplugged. Sì, è il suo testamento artistico. Lo sai che il secondo album unplugged più venduto l'ha battuto Eric Clapton, dal punto di vista di vendite. Però il secondo, e dopo il terzo deve essere Bob Dylan. Un grande disco in Nirvana. Ieri sera abbiamo parlato dei Foo Fighters. Foo Fighters sono una manica molto grande di Nirvana. Sì. Battista se n'è andato, ha fatto i Foo Fighters. E l'immagine di Nirvana c'è sempre, bene o male. Ha lasciato Kurt Cobain e la sua band, ha lasciato tante cose positive, sì. Nonostante la fine tragica che poi ha fatto. Però certi geni purtroppo finiscono in una certa maniera. Certi geni hanno una sensibilità forse particolare, per cui non è, chiaramente non è accettabile una fine di questo genere, però è capitato. Però qualcuno riesce a sopportare, qualcuno arriva allo stremo o cerca l'evasione tramite la droga o esattamente. Che sono soluzioni, non sono soluzioni, sono scelte sbagliate. Sono scelte assolutamente che poi sbagliate. Che portano uno al baratro. Esatto. Quindi hai scelto i Nirvana, Unplugged. Sì. Numero 4, numero 5 mi pare. Manca l'ultimo. Manca l'ultimo. Paolo. Poi interroghiamo lui, il nostro collega di Radio Pato. Allora, io direi, vediamo un altro gruppo che ha fatto la mia storia, devo dire... forse Harvest di Neil Young. Tu hai fatto una cover band. Ho fatto anche la cover band. Tu hai fatto le cose più elettriche, mi dicevi, o più acustiche? Abbiamo fatto entrambe. Ma ti piacevano i Crazy Horse quando urlava. Mi piacevano le canzoni Rock in the Free World. Mi piacevano un po' Zuma da 15 minuti. Che bello, Zuma a 15 minuti dal vivo. Sì. Una cosa incredibile. Corz the Killer. Sì. Ti entra dentro. Quello ti entra dentro. Poi io ho visto anche degli spezzoni live che lui faceva soli da 10 minuti. Cioè, cose incredibili. Che lui se lo può permettere. Lui può farlo. Lui è un grandissimo. Ha fatto disco nuovo, esce fra 10 giorni. Lui ha fatto Americana. Una serie di cover fatte a sua maniera. Adesso esce il disco nuovo. Uno dei tantissimi dischi che ha fatto lui. Sì, per lui è veramente una macchina. Una macchina. Poi non si è compromesso. Lui continua a fare le sue canzoni in maniera sua. È veramente un artista da apprezzare. Anche per i contenuti. È un grande. Per la profondità dei testi o anche per la carica e la potenza che hanno proprio i testi a livello sociale, cioè come critica sociale. È uno dei pochi artisti forse credibili, che possono essere credibili a livello, io direi a livello di Bob Dylan, come tipo di espressione, di comunicazione, insomma. A proposito di Bob Dylan, e poi passiamo la parola a Alberto, giusto? Sì, giusto. Cosa pensi di Tempest, l'ultimo disco di Dylan, che è ritornato ai vecchi amori? Ai pezzi da 15 minuti, è pezzo dedicato a John Lennon. Devo ancora sentirlo bene. Questo dedica al Titanic, Tempest. penso sia Dylan sia una figura affascinante, quindi... assolutamente biblica in certe espressioni. On and on the Watchtower la dice lunga, sì, su questo. Una figura quasi, sembra quasi uscita fuori dal tempo, cioè una, non so, un personaggio che mi affascina moltissimo, devo dire, enigmatico a livelli incredibili, e quindi ascolterò sicuramente Tempest. Alberto, tu cosa ascolti allora? Abbiamo scelto uno, George Benson l'abbiamo già scelto. Io sono nero dentro. Tu sei nero dentro. Assolutamente, abbiamo parlato. Però c'è un qualche cosa che ha a che fare con il rock che ho ereditato da mio fratello quando era giovane. Io ero giovane e lui ascoltava queste cose. Sicuramente un disco degli Yes. Sono indeciso tra Yes. Close to the Edge e Fragile. Uno dei due. Ma tu devi al prog allora, stavolta. Questa è rimasta dentro. Sinceramente, ho acquisito tutta la discografia, tranne Tormato, che dicono sia il più brutto di tutta la serie. E sicuramente uno dei due lo porterei, se non il DVD, quello che hanno fatto con l'orchestra sinfonica, che è l'apoteosi per me. Poi sicuramente. Cambio, ovviamente vado nel mio, e un Miles Davis a caso. Miles Davis a caso. Potrei dire anche un Herbie Hancock a caso. A caso, sì. Tutta gente di poco valore, valore. Cioè, sicuramente un Prince. Ecco, ci fermiamo un secondo. Sì. Prince quale? No, sicuramente devi scegliere stavolta Prince. Miles Davis, Herbie Hancock, posso essere d'accordo. Prince dobbiamo scegliere. Cosa? Io ti devo dire, ho una certa difficoltà a scegliere, perché Dimmi. È un mio amore proprio, quindi anche lì farei un best, perché a questo punto, cioè, vabbè, è facile dire Purple Rain, no? Esatto, è facile, il disco facile prog di prog, anche Graffiti Bridge piuttosto che Love Sexy, cioè anche il Black Album, che comunque è comunque particolare, ma anche quello che aveva fatto 3 anni fa, che era un triplo con e l'ultimo, che a me fa decisamente impazzire, c'è solo il singolo, però lo aspettavamo con ansia da tempo. Questa volta lui ha fatto classico pezzo commerciale che spaccherà di brutto, lo stanno già tutti programmando, quindi sicuramente un Prince. Siamo a 4, sì, esattamente. E poi il mio artista preferito, che era Michael Waldron. L'ho sempre amato, sia come produttore che proprio come musicista, perché comunque lui aveva il passato con la Mavis Orchestra, insomma, c'è, cioè, uno che comunque ne sa. Vai sempre sulle cose leggere, sempre delle cose leggere, cioè gente che non sa suonare, vai sempre su quelle persone late. Noi siamo dei, tra virgolette, drogati di musica, quindi abbiamo bisogno sempre di più, quindi è così. Io sicuramente questi. Bene. Però questi 5 sono pochi. Lo so, cioè, è vero. Se io ti dicessi il tuo disco, ne hai uno solo, non posso crederci. Che tu hai un disco solamente. No, uno. Non ho un disco. Io ho un grande amore, si chiama Cat Stevens. Ok. Quello è un grande amore. E lì porteresti tutto. È tutto la sua discografia totale. Anche quelli più brutti, nel senso, più brutti per gli altri, ma per me bellissimi lo stesso. Certo. Quando hai un amore. È un amore. Hai fatto una cosa brutta, poi alla fine. Esattamente. È difficile. Benissimo, abbiamo fatto. Come dire, Vasco o Liga? È quello, Blur o Oasis, Rolling Stone o Beatles, Spandau Ballet o Duran Duran. Bravo, perfetto. C'è poco da fare. Depeche Mode o Simple Minds. È vero. Ci sono talmente tanti. Esattamente. Il dualismo c'è sempre stato nella musica. Il dualismo fa bene. Bello, fa bene, sì. Fa bene, però non è vero che i Beatles e i Rolling Stone si odiavano. Non è vero, sono cose giornalistiche e basta. Si amavano. Però i Rolling ci sono ancora e non è male neanche l'ultimo. No. Cioè, mi sembra di sentire cose degli anni 60 quasi. Sì, è vero. È eccezionale. Io poi ultimamente sono stato, adesso poi prendo gusto. Sono rimasto folgorato, non l'avevo mai visto e ho visto I Love Radio Rock. Ah, bello. Non l'avevo mai visto, devo dire alle mie, cioè, sono arrivato tardi, però è stata un amore lì, cioè, solo la colonna sonora è strepitoso, sì, bellissimo. Cioè, mix di soul, di rock and roll, quel momento lì poi particolare, cioè, non ce n'è una di brutta, è una colonna sonora pazzesca, bellissima. Vedi, cosa simile aveva, tu ami il soul, adesso dopo terminiamo, Paolo, tu ami il soul, negritudine, perché non parli di Phil Spector? perché Phil Spector ha dato una mano a questo muro del suono negli anni 60, l'ha creato lui, al di là che poi ha prodotto il disco dei Beatles, è stato abbiurato da Paul McCartney, al di là di questo di essere amico fraterno di John Lennon, al di là di questo World of Sound l'ha creato lui. Tu hai parlato di Soul, certo. Il World of Sound l'ha creato lui, ragazzi. Ma io in genere parto più dagli anni 70, e arrivo anni più 70. Verso i giorni, capito, nostri, perché comunque insomma ho iniziato in quel periodo lì e insomma sono del 66, quindi insomma, sei giovane, molto giovane rispetto a me, molto giovane, e poi giovanissimo, cioè, poi quando uno inizia di Paolo è giovanissimo, lui è veramente proprio giovanissimo. Quando si parla di queste cose tu parti con la cosa più attuale e poi la tua curiosità va indietro a sentire. Sto andando un po' nei 60, quelli soul sì, però una cultura un po' più generale anche nel rock non è male. Bene, adesso ci fermiamo un secondo e passiamo a sentire un disco di Paolo, un pezzo dal disco di Paolo. Che cosa hai scelto, Paolo? È la 9, dovrebbe essere, Confesso. Ok, benissimo. Rock Wave, Rock Wave Live. La mia depressione, tra il bene e il male, c'è di mezzo la mia confusione. Se vuoi guarire, vattene via che ti passa tutto. Se vuoi restare, almeno non chiamarmi farabutto. Confesso, confesso, sono accecato dal tuo riflesso. Confesso, confesso. Confesso, confesso, sono accecato dal tuo riflesso. Confesso, confesso. Il tuo odore, misto di fragola ed ossessione. Il tuo sapore, un po' vaniglia e un po' rancore. Che ti passa tutto. Se vuoi restare, allora spogliati o vestiti a lutto. Confesso, confesso, sono accecato dal tuo riflesso. Confesso, confesso. Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Anche qua non ti tiri mica indietro, veramente un altro pezzo decisamente tosto. Questo era tostissimo. Era proprio tostissimo questo qua. Bello, bello tosto, bello pieno. Qui dal vivo fai fuochi d'artificio, secondo me. Sì, questa è una delle canzoni più cariche, anche una canzone che è nata, una delle canzoni più istintive, perché anche il testo è una cosa, una sorta di flusso di coscienza alla Joyce, per dire, c'è delle frasi scritte così al volo, in maniera veloce, senza pormi barriere o limiti, Il titolo è proprio giusto, confesso, cioè come dire, confesso, a cuore aperto, questo. Dico questo E basta, è la canzone, punto. Sì, sì, sì, è la canzone un po' più schizzata, tra virgolette, un po' più strana dell'album, sì, ecco, strana, anche dal punto di vista del testo, e forse anche quella di più difficile interpretazione, però il bello delle canzoni è anche quando non c'è una interpretazione, o comunque, o forse c'è, ma non deve essere tutto per forza chiaro in una canzone. Si scrive quello che si sente, la gente a volte si scrive quello che si sente e le persone poi la interpretano, esatto, devono scoprirla lentamente o progressivamente per capire meglio, che se è tutto chiaro si sente, chiaramente si interpreta immediatamente, però la gente tende a non pensare, secondo me, se è tutto chiaro. Sì, è meglio alludere piuttosto che dire, c'è una cosa che ho sempre pensato anch'io, quindi non essere proprio... Perché no, ti sveli subito tutto e ti stanchi subito dalla canzone, perché dici, vabbè, mi ha detto questo, punto, ok. Però invece se è una canzone che ha qualche possibile senso doppio, qualche riferimento ad altro, poi l'ascolti per capire sempre di più e quindi la riascolti. Certo, certo. E ti entra anche di più. Una cosa dobbiamo fare, questa importantissima, riepilogare tutti i musicisti, ma veramente tosti musicisti, che hanno partecipato all'album. Allora, mi prendo il libretto. È giusto che perché dobbiamo citarli tutti, dimenticare esattamente qualcuno. Allora, ovviamente ho già detto i produttori, Stefano Flori e Matteo Franzan. Allora, il batterista Giulio Faedo, Giulio Filotto che ha suonato le tastiere, Beppe Corazza ha suonato sax, sax soprano e non mi ricordo se... tromba forse comunque tromba. Fiati. Michele Sguotti invece ha suonato i violini, viola e violino, Lorenzo Sabadini ha le percussioni e io ho suonato la batteria in un pezzo. Tu suoni la chitarra? Ho cantato, io ho suonato chitarra ritmica, ho fatto un paio di assoli anch'io, il resto li ha fatti un po' Stefano, Matteo Franzano ha suonato il basso e basta, credo di aver detto tutto. Li hai citati tutti praticamente. Voce e cori, essenzialmente. Bene, e la fotografia della copertina? La cover è di Paolo Guadagnin, un mio amico, che ha fatto anche la foto del primo album. Ha fatto anche il libretto dentro, tutto qua. Libretto, sì, anche la foto del primo album l'ha fatta anche lui. L'idea della copertina è stata piuttosto... semplice come idea, poi da realizzarla è stata un po' più meno facile del previsto, perché l'idea era quella di fare appunto questa Polaroid tenuta in mano, e detta così sembrava, vabbè, si fa in pochi secondi uno scatto. Non è proprio così. Il lavoro è stato un po' più complicato, però il risultato è stato ottimo. Certo, certo. Certo. L'idea era quella di fare uno scatto quasi fosse uno scatto rubato, quindi non un'espressione in non un Paolo Cecchini in posa nello studio fotografico con le luci a posto. Qua sono davanti ad un muro bianco, semplicemente con una foto, con uno sguardo un po' sorpreso. Ho sorpreso, esattamente. E ricordiamo, se tu hai qualche data, qualche idea di data, qualcosa, lo sviluppo, il progetto come si svilupperà dal punto di vista live, persona? Dal punto di vista live, adesso ho in programma preparando lo spettacolo definitivo che vedrà delle differenze rispetto a quello che ho fatto fino ad ora, che suonavo in trio, adesso probabilmente verrà ampliata la formazione per rendere tutto più al potente. Meglio. Sì, anche per fare in modo di esprimermi meglio dal vivo, perché essere troppo concentrati magari nel suonare la chitarra e può distrarmi, quindi se ci sarà un altro chitarrista meglio e quindi potrò essere più libero e esprimermi in maniera, certo, in maniera più naturale, e poi vedremo a seconda delle location, ovviamente. E l'idea è anche quella di fare prossimamente un DVD live per far conoscere anche sia su internet, comunque in generale, per conoscere questo aspetto mio live e per far capire chi sono e come suono anche. Esatto, quindi ricordiamo che Quanto Valgo è uscito da pochissimi giorni, quindi neanche un mese. E dove lo si può trovare, sia se uno vuole fisicamente, ai tuoi concerti? Ai miei concerti, oppure può anche contattarmi direttamente tramite Facebook, il sito che è www.paolocecchini.it, o su Twitter, comunque su Facebook, diciamo, mandarmi un messaggio, basta mi dica mi piace veramente, mi piace il disco, CD, certo. Potrei averlo, perché sui negozi è molto difficile adesso riuscire ad avere la distribuzione, adesso è su iTunes, più avanti vedremo se ci sarà, se la, ci sarà possibilità, mm-hmm, sicuramente, di distribuirlo. Sicuramente la copia fisica penso sia, è ancora una bella cosa, è ancora una bella cosa, perché è una qualcosa di tangibile, esatto. Perché adesso su iTunes, sui portali, però io che ho una certa età preferisco sempre la copia fisica, perché una volta si usava così, e perché la fisicità vale ancora per un disco, per un CD, per un LP. Adesso sono ritornati gli LP in giro, e anche sì, quella è una cosa meravigliosa. Hanno persi i valori del fotografare, della copertina, dell'interno, dei ceselli. Noi abbiamo parlato degli S prima, sì, col collega di Radio Easy Radio, e gli S avevano Roger Dean come disegnatore, sì, un signor disegnatore, cioè un credibile personaggio, un incredibile artista, che proprio dava la colorazione all'idea degli S, per dire, gli S, tanti altri gruppi. Sì, sì, poi è bello anche proprio questo aspetto che hai sottolineato appena adesso, proprio questa collaborazione, questa tra le varie arti, no? Questa misto, perché un CD non è solo, è arte, non è solo musica e basta. È bello che questo fatto che c'è il fotografo che vuole dare la sua, mette a disposizione la sua arte a un progetto, e il grafico che fa un'altra, e quindi diventa un qualcosa di più complesso e più completo. Penso che sia bello anche quello, cioè ci sono degli album di cui si ricorda la copertina ed è bello ricordarla, certo, perché invece adesso è la musica, non sì, però non rimane, è troppo, cioè, fruibile immediatamente, sì, si perde, sì. Sì, chiaramente è più agevole, si perde meno tempo, ecco, però qualche volta il tempo va perso in una certa maniera, secondo me. Sì, sì, sì, poi ovviamente la copertina ci deve essere un senso, perché è anche un segno senso, dell'artista, se no tanto vale fare una foto tessera, allora. Però io penso che sia bello anche da parte dell'artista pensare alla copertina, dire voglio dare questo senso qui, certo, voglio che arrivi questa immagine anziché un'altra, e quindi è una parte del disco, cioè una parte, io non potrei vederlo scisso adesso la copertina dalla musica che c'è, non mi piacerebbe neanche molto. Tu hai citato i Pink Floyd, più copertine di Pink Floyd, sì, proprio cioè, l'immagine dei Pink è nella copertina, il famoso studio dei due ragazzi sconosciuti che poi sono diventati celebrità mondiali, però sono partiti da per esempio, ricordo Atom Heart Mother, che idea geniale è stata, sì, quella, sì, della, sì, Mukka Tomic, è un'idea geniale, c'è poco da fare, è vero, vero. E quello la gente ricorda, la copertina, chiaramente il disco è meraviglioso, ma la copertina è come ricorda la copertina tua, del tuo disco. Dopo è importante, fondamentale il contenuto, ma la copertina è significativa per dare anche, per aprire la finestra al contenuto. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Suoniamo qualcosa, Paolo, cosa dici? Ma direi di sì. Che cosa adesso? Pensavo di suonare Lei. Perfetto. Ammetto, credevo di essere la sua dolce meta, il suo chiaro di luna, la sua gioia, senza dubbio il suo re. Ammetto, pensavo fosse una buona idea seguirla e donarle ogni mia energia. Ora son vuoto e so perché. Mi prosciuga la mente e l'anima, mi percuote, mi spinge la cera, mi persuade la lasciva voluta, mi prosciuga, sì, mi prosciuga lei. Scommetto, credevi che io avrei anche ucciso per lei, ti sei sbagliato e te ne accorgerai, sono inerme e debole. Scommetto che pensavi fosse la cura giusta per me, la medicina del mio vivere. Ma resto vuoto e sa perché, sa perché. Oh, oh, mi prosciuga la mente e l'anima, mi percuote, mi spinge la cera, mi persuade la lasciva voluta, mi prosciuga, sì, mi prosciuga lei, lei. Mi prosciuga la mente e l'anima, mi prosciuga la mente e l'anima, mi prosciuga la mente e l'anima, mi prosciuga, sì, mi prosciuga, mi prosciuga, ti prosciuga, mi prosciuga, sì, mi prosciuga, mi prosciuga, sì, mi prosciuga, mi prosciuga, sì, mi prosciuga. Lei, lei, lei, ah, lei. Mi prosciuga la mente e l'anima, mi prosciuga la mente e l'anima. Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Mi prosciuga la mente e l'anima è quasi un verso panchettaro, assolutamente, sì. Molto panchettaro. Molto panchettaro, molto, molto anche tratto da Nirvana e poi anche c'è un pizzico di Beatles, un sì. Pizzico di più, c'è un po' di varie influenze. Varie influenze, sì. Devo dire che, per esempio, non so se si senta molto nel disco, c'è quel sospiro poco prima di lei, che è un chiaro, per chi lo conosce, un riferimento alla canzone Girl dei Beatles, che tra l'altro lei ha anche il titolo, quindi c'è un po' un omaggio. Ho fatto quel sospiro che mi sembra sia di McCartney. Sì, mi pare sì, visto che Girl l'ha scritta lui, mi pare. Quella canzone. Sì. Poi il giro di accordi e il sax, l'assolo di sax è un omaggio che posso dire di aver fatto anche ai Pink Floyd, che è l'assolo fantastico di Money, per esempio, che è una cosa incredibile, che è stato fatto in questa canzone da Beppe Corazza. Bravissimo. Quindi è un miscuglio di generi questa canzone, un altro miscuglio ben riuscito, cioè oltre a Non avere paura di cui abbiamo parlato prima, questo penso sia un'altra canzone che non saprei come definire come genere, perché non è rock in tutti i sensi. Sì, a 360 gradi possiamo dire questo. Quindi non è collocabile, e questo però mi piace, cioè io sono contento di questo. Anche se che noi siamo può essere una arma a doppio taglio, nel senso anche che non sei classificato come rock, ma neanche come pop, ma neanche come... però meglio così, cioè, sei te, basta, sono io, basta, chiaramente anche, bene. Anche il testo non è da poco, questo rincorso, questo finale così inquietante, molto, sì. Come detto, come ripetiamo il discorso di molto panchettaro, il punk, sì. entra in media, sì. Entra fortissimamente, entra. Anche come ben sappiamo non aveva mezze misure, no, anche se durava 2 minuti e 30 o 3 minuti scarsi, Ramones Docet entrava immediatamente, aveva una forza prorompente, al di là poi dei Sex Pistols, al di là dei Clash e tutte altre cose, e poi i Clash hanno fatto delle cose molto interessanti, hanno superato il punk, sì. Qualcuno dice sì, probabilmente sì, sono andati oltre il punk. Sì, forse anche un po' Clash, anche la canzone, non so. Sì, secondo me qualcosina dei Clash aveva, qualche riferimento, qualche riandare nel tempo, ma non c'è niente di negativo, assolutamente. I maestri devono, secondo me, essere sempre citati, con il dovuto rispetto, e assolutamente col dovuto rispetto all'autonomia dell'artista, in quel caso te, che tu sei autonomo, sì, al 100%, ti chiami Paolo Cicchi, non c'è scritto, non so, un altro autore, sei te e basta. Sì, infatti, poi oltretutto penso che sia impossibile, cioè anche i grandi artisti che noi riteniamo originali al 100%, in realtà anche loro hanno i loro riferimenti, certo, ovviamente. Pensa qualcosa, quindi... il povero George Harrison con Is It Fine, My Sweet Lord, non so quanti milioni di sterline ha dovuto pagare all'epoca. Lui ha sempre detto, l'ho sentito, ma non volutamente, così nell'aria, era questo ritornello. E quindi... E può capitare. Alle volte non è, anzi, la quasi sempre non è una cosa consapevole. No, cioè, assolutamente sono... no. Mi è capitato spesso di scrivere una canzone e poi di sentirla, anche una canzone che poi in realtà non ho mai sentito. Chiaro. Dico, è uguale a quest'altra che hai scritto tu, ma può capitare. Può capitare, non è... Poi ovviamente ci sono persone invece che prendono una canzone, e quello è sbagliato, prendono una canzone di un altro gruppo, dicono, la facciamo un po' diversa, però mettiamo una melodia. Ma c'è una regola per la SIAE per questo, vero Paolo? Basta cambiare leggermente qualche nota. Sì, deve essere cambiato qualcosa, non so di preciso. Poche note, la canzone diventa tua. È vero. Però... famosi cini di Michael Jackson e di Albano, era assolutamente uguale, però il discorso di cambiamento di alcuni momenti, al di là di questi giochi, ognuno può essere ispirato da un sogno anche, chi lo sa? Sì, è vero. O anche da una canzone che mai si è ascoltata, però inconsapevolmente. Inconsapevolmente. Ti è passata e... È vero. E quindi io tendenzialmente non copio, cioè non copio, prendo. Non si tratta di copiare, solo. Ho spunti ovunque, perché gli spunti ci sono ovunque. Il suono di una determinata batteria, o certo. Una determinata melodia che mi piace, come si struttura, ma in realtà prendo ovunque, non prendo da nessuna parte, perché no, soprattutto adesso, una volta poi di gruppi di riferimento. Ma adesso stai andando per la tua strada. I gruppi sono, sì, però ti chiamo Paolo Cecchin da solista. Sì, ma prima magari avevo un'influenza maggiore, sì. Cioè mi riferivo molto ai gruppi che ascoltavo. Adesso sono diventato onnivoro musicalmente, ascolto praticamente tutto. E quindi non potrei copiare niente, perché non ascolto tutto. Sì. Cioè. Ma non è copiare, è ispirarsi, non è copiare, secondo me. Sì. Caro Michele, che scaletta hai adesso? L'ultimo pezzo, c'è un altro pezzo di scaletta? Lo mettiamo su, cosa dici Paolo? Io direi sì. Che traccia ti ricordi? Mi sembra Lettera al Mondo, l'11. L'11, la sentiamo. Arrivederci caro mondo in fiamme, ci rivedremo quando sarai grande. Arrivederci caro mondo in fiamme, ci rivedremo quando sarai grande, quando il respiro fresco del mattino sarà migliore. Mi sono nascosto in grotte di cemento solo per scriverti quello che sento, gridarti tutto il mio dolore, farti cambiare. Purtroppo risposte io non ne ho, troppe domande io ti scriverò, ti lascerò. Quanti futuri uccisi con violenza, quanti problemi fuori da questa stanza, quando la vita di ogni uomo riavrà colore. Quante bugie dovrò sopportare, quante foglie stanno per cadere, quando la cenere che vedo a terra donerà vita. Purtroppo risposte io non ne ho, troppe domande io ti scriverò. Ancora una volta tu risponderai, io sarò sempre qui, ti aspetterò. Thank you. potrei sembrarti forse indifferente, ma sai che tu per me sei importante. Sono distante perché ho paura, sono un vile. Chi sono io per dirti di cambiare? Ammetto, sono il primo a sbagliare. Vorrei solo il caldo abbraccio del tuo mare. Purtroppo risposte io non ne ho. Troppe domande io ti scriverò. Ancora una volta tu risponderai. Io sarò sempre qui e aspetterò. Io sarò sempre qui e aspetterò. Ti scrivo arrivederci in un addio. Su Radio Veneto, bella come non l'hai mai sentito. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Mentre Paolo stava studiando la parte per la fine, Paolo stava studiando il pezzo da sentire, da suonare, sì, dal vivo. Sì, giusto? Il dottore studia anche i pezzi da suonare. Ti dal stavo vivo. Accordando. Ti stavi accordando. Abbiamo sentito questi archi, che ritornano questi archi veramente belli, significativi. E l'idea del, ripetiamo, ma ripetiamo bene, non fa mica male ripetere su certe cose positive. L'idea degli archi è stata decisamente molto positiva. Sì, sì. Senza dubbio. Senza dubbio ha dato un che bello, interessante. Ah, volevo ricordare, dimmi, che questa canzone, Lettera al Mondo, che abbiamo appena sentito, è scritta da Stefano Florio, che la è il musica, produttore. Il produttore. E io ho scritto il testo di questa Quindi canzone. Lui ha dato... Per precisare, perché sennò... Cioè lui ha costruito l'arrangiamento sonoro e tu gli hai messo il testo. Sì, io ho messo il testo. Ed è una canzone che sento molto, che ho lasciato per ultima, perché è una vera e propria lettera, lettera che scrivo a cuore aperto al mondo. Esatto. Ed è una canzone comunque di speranza, che tra l'altro ha una cosa che posso dire che è stata una mia idea di questa canzone, anche se è scritta da Stefano, la musica è scritta da Stefano Flori, il finale in maggiore anziché in minore, la canzone è tutta in minore, il finale in maggiore. L'hai voluto te? L'ho voluto io. L'hai voluto è una delle mie peculiarità. Benissimo. Detto, Stefano ha detto sì, facciamo, detto sì, facciamo dai, così, facciamolo, perché ti concedo. Ti concedo questa cosa perché... Bene, adesso per una mia concessione, l'abbiamo già sentito, però io voglio sentire da disco la traccia numero 5, perché c'è un motivo, soprattutto il finale. Adesso la sentiamo, la traccia numero 5, la traccia numero 5 la sentiamo, perché c'è un finale molto interessante che dà adito a delle spiegazioni, a un percorso che forse Paolo potrà fare in un futuro, non si sa. La sentiamo, la traccia numero 5, e poi diciamo il titolo, ok? Ammetto, credevo di essere la sua dolce metà, il suo chiaro di luna, la sua gioia. Senza dubbio il suo re. Ammetto, pensavo fosse una buona idea seguirla e donarle ogni mia energia. Ora son vuoto e so perché. Mi prosciuga la mente e l'anima, mi percuote, mi spinge la cera, mi persuade la Shiva voluta, mi prosciuga, sì, mi prosciuga. Scommetto, credevi che io avrei anche ucciso per lei. Ti sei sbagliato, te ne accorgerai. Sono inerme, debole. scommetto, pensavi fosse la cura giusta per me, la medicina del mio vivere. Ma resto vuoto e so perché, so perché. Oh, mi prosciuga la mente e l'anima, mi percuote, mi spinge la cera, mi persuade la Shiva voluta, mi prosciuga, se mi prosciuga. Wave Live. Sì, perché l'ho messo su questo pezzo? È stata una mia scelta, perché mi piaceva molto questo mirare o andare. Tu sei un esperto di jazz, vieni davanti il microfono. Sto andare verso certi terreni, certi che non sono paludosi, sono belle, lussureggianti, secondo me. Cosa sì. dici, Paolo? Penso di sì. È stata una scoperta anche per me. Cioè, questo passo verso questi terreni che per me erano inesplorati, no? Mm. E è stata una cosa naturale anche questa, non è stata una forzatura né una scelta che ho fatto in maniera razionale o ho fatto prima o consciamente, è stata qualcosa che è venuto scrivendo la canzone in maniera assolutamente spontanea. Questo penso sia la cosa più bella per un artista, soprattutto visto anche che il risultato che è venuto, che è comunque qualcosa bello. Mi soddisfa. Sì, è bellissimo questo, secondo me. Come costruzione è complessa ma interessante. Ripetiamo il titolo, Paolo. Si intitola Lei. E lei, cosa ne pensi, Alberto? C'era quel sax alla fine. Quel sax, proprio quel quello. Sax che mi faceva ricordare, non lo so, qualcosa di Pink Floyd, per esempio. Per esempio. Non lo so, un nome a caso. Un nome a caso. Direi che... messo giù così, proprio. Sì, sì, ma... La tonalità era quella. Ha voluto esplorare, Paolo, secondo me ha fatto bene. I Pink, sì, può darsi anche qualche terreno jazzistico. Beh, sicuramente avrà influito la sua cultura, insomma, quello che certo, ha ascoltato certo. Qualcosa. Sì, dai, sì, mi sono venuti fuori chiari prima con i cinque dischi. Ho confessato, poi si chiama un pezzo che si chiama Confesso, quindi più forte di così. E poi all'inizio reggae, che non era mica male, interessante, un reggae punk, possiamo dire, un po' di cose. Sì, un pezzo complesso, non era semplice da gestire un pezzo simile. L'hai gestito benissimo quella chitarra, però dal disco era un po' strano, ma con tante idee, ecco quello sì. Dai. Sì, sono tante idee messe assieme, l'inizio con la chitarra stoppata. Ecco, la chitarra stoppata. Il ritornello che è un po' più sul rock classico, con gli accordi aperti. Poi ritorno col solo di sax, il finale un po' sospirato sempre. Molti elementi che stanno bene assieme. Un'idea per il prossimo futuro, Paolo? Come ho detto io all'inizio, prima di sentire il pezzo. Questo tipo di... queste aperture, Ah, sicuramente. Io non mi pongo limiti, quindi artisticamente penso che ogni artista debba essere così, insomma, non si sa mai, magari qualcuno mi rinnegherà nel senso che magari farà un disco dance il prossimo, mettiamo, per assurdo. Può darsi. Però non pongo limiti, cioè voglio dire, se dovesse capitare. Ha fatto anche John Cale il nuovo disco, non è proprio dance, però quasi, e i puristi hanno tirato fuori il naso, hanno ricciato il naso. Sì, ed è vero, c'è un pezzo dance che posso dire io, mi sono un po' allontanato. Vabbè, scusa, anche Santana ha fatto un pezzo disco, sì, lo so, John ha fatto un album di addirittura disco, i Beach Boys, i Creedence, hanno fatto di tutti, hai capito? Ci sono libri che parlano, certo, hanno tentato in qualche modo di inserirsi in quel momento, andava quella roba là e probabilmente io per esempio il Santana disco non mi dispiace. Ah, vedi, ti piace, cioè, i Beach Boys non me li aspettavo, li ho scoperti da poco e devo dire che è stata una bella scoperta, perché pensare che un gruppo del genere, ma gli stessi Creedence, sì, che poi alla fine hanno fatto una cover, che era una cover di un pezzo soul, però rivisitato così non è male assolutamente, cioè, è un bel tiro. È un bel tiro. Sì, sì. Benissimo, 23:54, Paolo, abbiamo finito, abbiamo fatto due ore piene di musica stasera. Sono abbiamo volato. Avuto l'ospite di Easy Radio qui, Alberto. Che onore. Un'intrusione. Ma un'intrusione positiva, assolutamente. Quando si parla di musica è la tua passione, poi insomma alla fine ti si fa presto ad essere coinvolti. Certo, la musica c'è un'unione totale di intenti, non ci sono barriere nella musica, si suona, si canta, si vive. Si vive suonando, e non soltanto suonando, dando la possibilità ad altra gente di sentire cose diverse, e cantautori come Paolo sicuramente. Certo, è giusto anche. Poi voi avete uno storico notevole in questo campo, insomma, sono anni che andate avanti. Ah, sì. Sono 10 anni in direzione, quindi insomma, live, è giusto, quindi. Per fortuna. Sì, io sono. Se no, cioè, come si fa? Se aspettiamo che il pezzo entri nella top 40 per poterlo suonare, come fanno tutti. Noi non aspettiamo. Oppure aspettare che qualcuno foraggi per passare il pezzo alla radio. Esiste anche esiste questo, anche diciamo questo. Esiste. Certo che esiste. E noi siamo un po' diversi, perché la radio, come diceva Finardi tanto tempo fa, è libera veramente. Sì. Una volta. Questa una volta. Adesso noi sì. Spiegando il Dio business. Ma noi cerchiamo di essere liberi veramente. Ecco. Benissimo, grazie ad Alberto, grazie a Paolo. Grazie a voi dell'ospitalità. Al suo disco Quanto Valgo. Paolo, lo troviamo, ripetilo, dove possiamo trovare il disco? Possiamo trovarlo su iTunes, è uscito il 29 settembre, lo trovate lì, oppure se volete proprio una copia, fisica. La copia fisica, mi contattate su Facebook, trovate, c'è la mia pagina ufficiale, oppure anche contattatemi tramite sito, dove potrete avere anche tutte le notizie su eventuali live o su interviste o altri appuntamenti che farò nei prossimi mesi. Terminiamo con quale pezzo? Un pezzo molto importante. Questo sì, è un pezzo che ho scritto per mio padre, che se n'è andato quando ero piccolo. Un pezzo di speranza, perché è anche una convinzione, cioè la convinzione che comunque lui sia ancora vicino a me, che sia ancora dentro me. Certo, dentro. Mi stia ancora guidando nella vita. E la canzone appunto si intitola Dentro me. Grazie a Michele Tosoni in regia, buonanotte a tutti. Rimani qui ancora un attimo per difendermi. Sei andato via troppo presto, non so perché. Chissà se tu sei ancora accanto a me o no. Mio padre sei e sempre resterai, perché sei dentro me, dentro me, rimani qui accanto a me. Ritorna qui, mi basta un attimo, parlami. Sono grande ormai, ma ho bisogno di te e lo sai. Chissà se tu sei orgoglioso di me o no. Sento che sei qui con un abbraccio, ciao papà. Dentro me, dentro me, dentro me, dentro me, dentro me, dentro me. Rimani qui accanto a me. Rimani qui ancora un attimo per difendermi. Rock Wave. Rock Wave Live.